allora, Crucelli, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Grazie Paolo Villaggio in diretta da Verona, grazie a tutti, grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ma cosa grazie. Fai? Ma sembri io, Madonna. Ma aspetta, io Verona. Non sapevo che esistessero ancora le suore di clausura. Vabbè, cioè, mi pare normale che nel 2000, so, dico una cosa blasfema, come dico sempre, nel 2014 esistono, nel 2015 le suore di clausura. L'ho scoperto da alcune parole del Cardinal Sepe durante la visita di Papa Francesco Cardinal a Napoli. Cardinal Sepe. Allora, questo è un cardinale, quello che sentirete fra pochi istanti è un cardinale. Via. A tutte le suore di clausura di 7 conventi di Napoli che stanno qui a uscire, sono tutte di clausura. Dopo, ma guarda qua, ma come ho fatto? Sorelle, dopo, ma. E queste sono i clausuri, figuriamoci quelle non clausuri. Che cosa succede? E chi ne su mangi in una domoga? Sorelle, sorelle, dimmi che fa? Sorelle, una giacchina, sei messo? Devo dire che il Cardinal Sepe ha avuto anche un suo spirito, pensate se non fossero suore di clausura. Il personaggio politico del giorno però non è l'uomo che accanto qui a Verona, ma una donna che si chiama Alessandra Mussolini. Perché io impazzisco quando uno parla per allusioni, lo dicesse chiaramente. Sentiamo quello che ha detto su Nunzia De Girolamo. Ha detto una cosa, che è una ex ministro del nuovo centrodestra, che adesso è un po' incerta, non si capisce se deve tornare con Forza Italia, se rimanere con Alfano, eccetera eccetera. Mussolini dice chiaramente che la De Girolamo è entrata in politica, è entrata in Forza Italia perché ha fatto sesso con Berlusconi, però non lo vuole dire chiaramente, sentite. Chiudo con la De Girolamo. Ammazza questa, che faccia! Scusatemi, però sono avvelenata. Allora la De Girolamo fa berlusconiana che non si capisce, e non si capisce manco come è diventata deputato. Uno. Allora non c'è, per io lo so ma non ve lo dico. Allora un certo c'è di mezzo qualche orsetto. Allora a un certo punto berlusconiana. Poi di punto in bianco anche lei diventa alfaniana, come fossero extraterrestri. Allora, dal punto di vista politico, secondo me ha ragione al 100%. Però, cara Mussolini, o lo dici chiaramente, perché ci fu tutta una storia su un orsacchiotto regalato da Berlusconi alla De Girolamo, oppure non lo dici, perché altrimenti non puoi dire ve lo dico, lo so, ma non ve lo dico. E poi ti prendi tutti gli attacchi di quelli che dicono sei sessista, hai fatto delle allusioni, e magari ti querela pure quella. Comunque, Mussolini ancora su Alfano. Allora io dico ad Alfano, brutto vicino a lupi, quanto era brutto, sta faccia da geco. Dico, ma occupati di fare il ministro dell'interno, che ci abbiamo i problemi in tutta Italia, anziché fare pure il segretario politico dell'NCD. Allora, la Mussolini è anche per Salvini. Sentiamo, su Salvini. Basta, e basta pure di Salvini, quanto è brutto con quell'orecchino. È brutto, è sgradevole. E ricordatevi che è sempre stato secessionista, bugiardo, che adesso è per l'Italia. Voglio vedere se cantano l'inno di Mameli, lo voglio vedere con quell'orecchino. Vabbè, poi un format ormai è diventato lo scontro tra Salvini e Parenzo, non solo la radio, anche in televisione. Ieri sera sentiamo un pezzo. della concezione padronale che ha, che al confronto Berlusconi era un dilettante al confronto di Renzi. Sì, sì, no, lo dico avendo conosciuto molto bene l'uno e il bue che dà del cornuto all'asino, comunque, per carità. Ma perché Parenzo deve continuare a... Ti ho glossato. Sei gradevole come una zanzara d'estate, quando tiri giù la tapparella. Tu come un gatto nei pantaloni. No, ancora. Chi si occupa di sanità? Le regioni. Lo hai fatto per 20 anni con lui. Posso parlare? Sì, sì, maleducato, posso parlare? Per 20 anni con posso lui. Parlare? Con lui. Posso parlare, maleducato? Lui. Posso parlare? Prego. Grazie. Se rinneghi quello che posso hai... parlare, ma io non rinnego. Ti rode che la gente ci vota? Cazzi tuoi. E continua a roderti. La gente ci vota, cazzi tuoi. Ma se a voi piace un mondo detto così... questo. Allora, e per finire io voglio sapere da questa platea quanto siete incazzati alla notizia che Greta e Vanessa forse tornano in Siria. Alzate la mano. Però qualcuno no in realtà, qualcuno non è incazzato. Lo chiedo subito al governatore del Veneto, Luca Zaia. Buonasera. Benvenuto, come sta? Grazie per l'applauso. Oh, c'è anche Parenzo. Lo conosce, ma io lo conosciamo da tanti anni con Zaia. Pensando che avete tanti siriani in sala. Tanti siriani? sì, perché gente che non ha alzato la mano. Ma a me dispiace, a me Zaia sta anche simpatico. Perché ti dispiace che cosa? Che mi dispiace della Lega? Che è della Lega. Mi piace la storia del perché gatto. Perché è una persona per bene, capisci? Del gatto nei pantaloni. Stavo per dire nelle mutande. Spiegaci gatto... cosa succede quando ce l'hai nei pantaloni. E poi te lo faccio vedere. Però è molto divertente. No, ma io voglio sapere una cosa. A qualcuno piace? Queste signorine devono restituire i soldi del riscatto, a parte che dicono ma che riscattano. Sì. Cioè, devono restituire allora, allo Stato i soldi. Innanzitutto vorremmo capire, ma tu compreresti un'auto usata da uno come Gentiloni? Da uno come Gentiloni, no, sì, Gentiloni, perché ha fatto Gentiloni? No, ma cioè, deve ancora dirci se si è pagato il riscatto oppure ma queste no. Cose non si dicono mai. Ma come non si dicono? Non si può dire, non si ma che cosa hanno conti stranieri all'estero? È evidente che l'hanno pagato, lo sanno tutti. Se avessero pagato il riscatto, che devono fare questi qua? Restituire fino all'ultimo guarda, euro. Sono come quelli che vanno sulle Dolomiti con le Havaianas, con le infradito e poi pretendono che io ci mandi l'elicottero a salvarli. Io faccio pagare il conto in Veneto. Questo cioè è 12 milioni, però per pagare 12 milioni devono generazioni. Beh, ma ci pensi prima a questo punto, no? Cioè non è che sei andato in una missione. Abbiamo salvato due vite. No, scusami, non è che sei andato in una missione a far pozzi per i bambini che muoiono di fame e quant'altro. Nessuno ti ha detto andare lì, ci stavi a casa e se ci vai, quantomeno fatti un'assicurazione. L'assicurazione per i riscatti. E se vogliono tornare indietro adesso, se ci vogliono tornare di nuovo in Siria? Beh, dobbiamo farle andare, ritirare i documenti e si faranno cittadinanza siriana e restano lì a vita. E se crepano? Beh, noi speriamo sempre che loro non muoiano, perché noi non auguriamo la morte a nessuno. Però se loro vanno in Siria, a questo punto si arrangiano. Allora, qui siamo però in terra nemica, caro. Perché? È Verona. Siamo a Verona. Verona c'è una Verona. Parola che non no, si può pronunciare. È il regno del signor Tosi. No, assolutamente no. Beh, terra nemicissima ormai. Provi a pronunciare anche lei il nome. Tosi. Tosi. Ma io lo pronuncio bene, Flavio in Veneto. Flavio Tosi. Flavio Tosi. No, ancora di più. Ma che cos'è? Un traditore? Ma questo è diventato un cantore? No. Sì. Fa di tutto ormai. Lo spelling. Ormai è capace di fare qualsiasi fa cosa. Fa di tutto detto quasi così. Tutto. Ma Tosi è un traditore, lo possiamo definire così? No, guarda, cioè, come no? Ma io penso che ognuno deve dare sfogo alle sue legittime aspettative. E cioè, io corro a piedi, per cui sullo sterrato rendo bene. Mi hanno detto che avrò un terreno fangoso ancora di più. Cioè con chi? Con ma mi dicono che ho tanti avversari, però noi andremo dritti credo, all'obiettivo. Ma come lo consideri? Cioè, era tuo amico o no? Ma io non sono mai stato amico suo, il che non vuol dire che non avessi un buon rapporto. Però è altrettanto vero che lui da mio capo diventa mio concorrente alle prossime elezioni. Ma quanto vale? Quanto vale? Una scommessa. Lo dimostreranno i veneti. Ma una scommessa. Ma non te lo so dire, guardi. Sicuramente vale che non diventerà mai presidente della regione. Mai. Questo saresti disposto a scommettere qualsiasi cosa? Ma sì. Che cosa? Ma se diventa presidente Tosi mi potrei giocare la matita masticata che ho ancora delle elementari. No, come la matita masticata? Sì, me la sono messa via, tu non ce l'hai. C'è una cosa preziosa che tieni. Non mangiavi le matite? Ma sì, però l'ho buttata. No, cosa faceva Cruciani da bambino? No, all'elementare non facevo saperlo, nulla, non facevo nulla all'elementare. Ma comunque, che cos'è, da psicanalisi? Chi? Tosi? No, domani non fai il titolo solo con la psicanalisi. No, che ne so, da psicanalisi, l'hai capito te questa scelta? L'hai capito oppure una cosa così tutta... Ma sai, cioè, lui ha deciso che vuol correre, però devo anche dire che è stato persona coerente e onesta, perché uno che si candida e dice poi, se non fossi candidato voterei Zaia, sono tre quarti di voto per me. Perché? Perché l'ha comunque detto un endorsement, io l'ho avuto da lui. Se non mi candidassi. Io non l'avrei mai detto per lui. Però è un po' schizzoide come posizione allora. No, ma sai, cioè... dal punto di vista psicanalitico, uno dice se non c'è... No, non è schizzoide, io direi proprio di no. Lui legittimamente ha deciso di correre. Penso che in democrazia, dopo 5 anni, chiunque, il presidente uscente e anche quelli che non sono mai stati presidente, è giusto che se pongano le loro questioni i veneti decidono. Vabbè, Salvini ha detto che se tu non vinci è come se la Juventus non vincesse lo scudetto. Tocca qualche cosa qua. No, non sto toccando niente. Tocca dai, no, non hai toccato questo, però ma questa è di plastica, ci vuole qualcosa dai. In più ci vuole qualcosa in più, No, ma guarda, se io non vincessi è come che il mio che il mio cavallo corresse con 3 gambe. È impossibile. Ma non si possono dire queste cose. È impossibile. Questo, hanno messo le elezioni alla, manca una vita ancora alla fine, sì. La corsa, ma guardi, questi qua secondo me sono dei colleghi di Alpitour, di qualche tour operetto, come mai non si sa perché quando puntano, si va a votare in, puntano in po- beh, adesso sì. Seriamente è una cosa grave questa. No, qua. Guarda, hanno fissato il 17 e poi si sono accorti che c'era la donata degli alpini. Poi hanno spostato il 10 e hanno detto che il ballottaggio cadeva in una festività ebraica che era il 24. Poi sì, abbiamo pensato di farlo il 24 sera. Chi per se avere... ne frega la festività ebraica? Della festività... No, beh, bisogna rispettare gli ebrei. Io direi che piano, se ne frega. Andiamo piano. Il ghetto più vecchio d'Europa ce l'abbiamo noi in Veneto, Venezia. Vabbè, comunque. E fai 500 adesso anni rispettiamo pure la festività ebraica. Che dobbiamo rispettare? Ma perché non si ci hanno detto che lo facciamo il 31? E perché non rispettiamo la festività vegana? Ma perché sono italiani? Rispettiamo la festività vegana, i vegani hanno, fanno una festa, ma non votiamo mai, ma tutto là. Sei scemo senza bere. Gli ebrei, gli ebrei vanno rispettati. Proprio... Davide, gli ebrei vanno rispettati. No, mi fa piacere che la festività palestinese, allora facciamo anche, una festa. Anche ma se ci fosse, se sicuro, ci fosse la comunità, se ci fosse il Ramadan, non sarebbe giusto votare durante il Ramadan. Ma voi siete pazzi. Bello che lo dica, c'è un leghista, anche durante il Ramadan non si può votare. Ma tu hai un motore di ricerca? No, lui ha il motore di ricerca, quando vede la parola Lega pensa, super, no, pensa subito a idiota, sono no? Tanti ne... Ecco, bravo, sì, ogni tanto mi capita questo, sì, questo è vero. Diretta da Verona, la Zanzara, con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buonasera Luca a Zaia. Tutti. Lei è mandato dall'estetista? No. Mai, È sempre occupata, forse la usa qualcun altro. Battuta, Lady Like dice lei. No, una volta no, dall'estetista no, sarà andato no. A farsi togliere i peli, no. Non si è mai depilato. No. Mai. Ma perché deve no. Depilarsi? Ma che ne so, uno si può depilare? No, io no, però no, ci sono andato una volta. Una volta sono andato. Ma lui è pieno di stranezze. Sì, l'ho capito. Non è l'unica quella della depilazione. Senta, ma lei ad esempio ancora lo cova un po' il sogno indipendentista, dica la verità, cioè del ma Veneto guarda, libero. Noi sogniamo due cose fondamentali: celebrare i due referendum che abbiamo, che sono stati approvati, che sono quelli dell'indipendenza e quello dell'autonomia. Vabbè. Sono referendum democratici. Ma nel suo sogno, detto, lei vorrebbe il Veneto indipendente, una moneta veneta. Bellissima. Beh, sarebbe troppo bello. Sarebbe bellissima una bello, moneta no? Veneta. Bellissima. Con cosa? Leone di San com'è Marco. Che si chiamava una volta? Com'è che si chiamava? Lo zecchino, no? Sì. La moneta veneta, come si chiama? Sì, lo zecchino. Doge Zaia, come si chiamava all'epoca della serie? No, io non sono Doge, non poi Porta Nera. Non sa niente della storia del Veneto. Come si chiama la moneta del Veneto? Avevamo sicuramente lo zecchino. Questo lo qua. Zecchino. Non lo zecchino d'oro. La lingua veneta non dovrebbe essere la prima lingua nelle scuole in Veneto? La prima. Ma sai, questa domanda ce la fanno spesso. Pensa che 7 veneti su 10 parlano e pensano sì, in veneto. Sì, ma nelle scuole la prima cosa non dovrebbe essere quella. No, la prima cosa... Cambiamo tutto. Sicuramente l'italiano. Ma l'ultimo mandato che te frega. No, ma però bisogna anche insegnare l'inglese e poi ovviamente conoscere il veneto. Io parlo 4 lingue. E anche la lingua sinti metterei io. Ma guarda, no, io non esagererei così. Adesso. Così. Allora, ci sono due notizie del mondo rom che mi sono venute oggi in testa mentre venivo qua. Mondo la prima rom. Notizia è questa: una madre ha aiutato un bambino, visto oggi una foto, a entrare dentro un cassonetto giallo dell'immondizia. Una madre rom ha aiutato a mettere. Dalla seconda notizia, il consigliere regionale di Forza Italia di Emilia Romagna. Scusami un attimo, però, vabbè, e quindi cosa vuol dire? Lupi non ha aiutato il figlio per andare a lavorare in un in un'azienda che cioè, lavorava come delle infrastrutture. È la stessa cosa. Ma voglio dire, il rom andava a lavorare nel cassonetto e il figlio di Lupi andava a lavorare al ministero. Ma là è la stessa cosa, cioè una madre con un bambino piccolo che gli insegna a infilarsi dentro un cassonetto dell'immondizia, ma capisco, è la stessa cosa. Sono due lavori chiaramente un po' diversi. Una è una tragedia, l'altra è una fortuna. Ma c'è, non c'è dubbio, però per quella cultura lì sbagliata, quello stava andando a lavorare. Dopodiché incalza, ha fatto molti più danni, se sarà tutto dimostrato, di quello che fanno i rom, ad esempio. Cioè la percezione dei rom che distruggono le nostre città, guardate cosa ha fatto, di cosa è accusato. Vabbè, in calza un signore che lavorava alle infrastrutture. Poi i rom, ma che c'entra i rom? Sempre i rom. Vabbè, io voglio capire se il Veneto derommizzato è un'ambizione di Zaia. Come ma guarda, noi non Veneto derommizzato non abbiamo non abbiamo questo, cioè da mettere nei cartelli. Noi abbiamo città, solo un'ambizione, invece. Che tutte le persone che si comportano male, che non rispettano la legge, se ne vadano, o meglio ancora vadano in galera. A noi non distinguiamo le persone in base alla loro etnia, questo è poco ma sicuro. Vabbè, d'accordo, ma devi sempre sapere collega, che in Veneto ci sono 514.000 immigrati perfettamente integrati. Sì, vale la pena ricordarlo questo. Ma il numero dei rom lo sai? Quanti rom ci sono? No, immagino che siano molti, siano ovviamente censiti all'interno di questi 500. Il tuo collega ha detto che sono feccia della società i rom, no? Collega, sono una feccia. Buonanno. Collega al Parlamento europeo. A prescindere che lo abbia detto Buonanno chiunque, io non condivido il fatto che si possano descrivere le persone come feccia della società. La feccia della società. Cosa razzista. La feccia della società. Cioè, Buonanno razzista. Beh, no, non ho detto una cosa razzista. Non ho detto questo, ho detto che si è espresso male e poteva non esprimersi così. Ti dico che la feccia della società è chi delinque non va in galera. Noi vogliamo solo questo. Ma i rom delinquono più spesso, sì. Ma guarda, ce l'hanno un po' dentro questa cosa di rubare. Cioè, se uno, oggi ci siamo visti alla stazione, io e lui, c'erano 4-5 rom. Che facevano? Mi sono detto. Ma che facevano? Era lì che aiutavano. Questo ti dirò che non è un grande indicatore. Però è tanto vero che i dati della criminologia ci dicono che comunque ci sono delle popolazioni che hanno un'incidenza di delinquenziale più elevata. Tra cui i rom, magrebini, provane sia che il 65%. Cioè, rubate le gente, il 65% della popolazione carceraria in Italia è comunque data di immigrati. Allora, non sappiamo ancora quando ci saranno le elezioni, però c'è stata una grande riconciliazione qui. Con chi? Perché abbiamo assistito a una stretta di mano, non so quanto sincera, qui al Vinitaly a Verona, tra uno che ha definito i veneti ubriaconi. Aveva definito. Adesso sentiremo più avanti. Ubriaconi e il governatore del Veneto, di questa terra, Luca Zaia, che spera di esserlo anche per i prossimi 5 years. Perché tu non lo speri? Io non lo so, io non spero niente. Io voto a Milano per Ma fortuna. Se fossi in Veneto? Lo dirò. Dico che prenditi lo dirò. L'impegno lo di dirò. Dirlo. Sì, anch'io lo dirò. Lo dici anche tu. Sì, ma tu sì, sei sì. Veneto. Io no, però voto a Roma adesso. Dai. Tre giorni prima delle elezioni dirò per chi voto il Veneto. Facciamo 5 giorni prima, così mi aiuta di più. No, ma che ne sai che voto? Non so se aiuta. Ma magari dici che voti per 5 Stelle, a me potrebbe anche aiutare. Ma a questo c'è punto, in Veneto, no? una lista Rom che corre per la presidenza. Bellissimo sarebbe. Rom Sinti per Palazzo. Non c'ho la più pallida idea. Vabbè, ma ti sei riconciliato con Toscani o no? Guarda, Toscani. È denunciato o no? È ufficialmente denunciato? Toscani è un bravo ragazzo. Ma hai denunciato o no? È stato deposito. Ancora no, perché detto una cosa, non la fai. No, ma gli ho fatto scrivere dall'avvocatura e ho detto scusati. Infatti è arrivato, si è inginocchiato. Mi sembrava quasi di essere il cardinale Seppe. Cioè, si è inginocchiato davanti a te? Sì, si è inginocchiato. Scena, mi sembrava una delle suore di clausura scappate l'altro giorno. Cioè, secondo te hai intenzione di chiedere scusa? No, ma a proposito, le suore di clausura, vi siete accorti che una suora aveva una cassetta di porri? Di porri? Sì, ma non avete visto le immagini? Ha portato i porri al Papa. Beh, fantastico. La verdura al Papa. Beh, Luciani era come una suora di clausura, è arrivata, ha detto Luciani era l'altro Papa. Quello morto. Sì, scusami, Luciani, Toscani, un lapsus. Toscani è arrivato, si è inginocchiato e ha detto mi scuso. Era una biscarata. Io ancora non ci credo. Vabbè, ve lo farete dire da lui. Chiederei come conferma. Noi però abbiamo comprato un etilometro. Bene. No, per veramente. Io soffio. No, etilometro. Però cosa ci scommettiamo? L'etilometro. Cosa ci giochiamo? Io ho fatto una giornata di vinitaly. Quanto ho bevuto lei? Vai. No, scusa. Dai, vai con l'etilometro. Non so come funziona però. Ma come non sai come funziona? Qualcuno che sa come funziona l'etilometro? 10, 9. Ah no, sono secondi. Vedi, c'è il countdown che va lì indietro e poi deve soffiarci con la bocca dentro. Che è la stessa. La bocca dentro, cioè. No, vabbè, però avete un sì, dopo prego. alle 7 e un quarto. Avvicinarsi, allora, aspetta, e soffiare nell'inalatore per 3-5 secondi. Ce la può fare? Aspetta. Avevo avuto un'idea, diciamo, simpatica, divertente, geniale, direi geniale quasi. Ovviamente c'è quella di far fare, dice, facciamo fare il test dell'etilometro al governatore del Veneto, vediamo che esce fuori. È evidente il test dell'alcol, come si chiama, è evidente che non beve durante il giorno, altrimenti sarebbe pazzo, scatenato. Comunque non funziona. Dov'è? Non funziona. Cos'è che non funziona? Non funziona questo affare. Ma diglielo a Lorenzina, ministro della salute, cosa c'entro io? Non funziona nulla di quello che fai, non funziona niente. Oggi l'allenatore dell'Inter, Mancini, ha detto una frase. Cosa c'entra Mancini adesso? No, aspetta, perché è una delle frasi del giorno. Ha detto in nazionale solo gente che nasce in Italia, no, cioè vabbè, basta oriundi. Ha ragione. Ma sarà mica possibile che c'è un campionato di calcio e non abbiamo più gli italiani che ci giocano? Ma guarda che anche in Francia e tutto il mondo. E cosa vuol dire? Ma se uno è bravo a giocare a calcio, cioè, gli oriundi via dalla nazionale, quelli che non sono nati in Italia via dalla nazionale. Ma finirà che alle convocazioni non si presenterà più nessuno di qui a questo passo, eh? Cioè, io do ragione a Mancini. Mancini ma come, ha ragione, ma scusa, però, ad esempio adesso prendiamo il caso capire. Del grandissimo Zidane, no, in Francia, sarà certo. Mica quello è, ormai quello è francese. È francese, appunto, quello è francese, è nato in Francia. Però è qualcuno nato in Francia, amico Zidane. Di Zai, magari, la Le Pen magari oggi direbbe no siccome non è proprio veramente francese, ma non è così, ma dai, Parenzo, Mancini ha detto questo, quelli che non sono nati in Italia, che hanno solo il passaporto. Ma Mancini pone una questione secondo me corretta, che è quello di pensare che abbiamo un sacco, adesso diciamo una cosa, ma glielo vado a spiegare ai tifosi, fatemi dire una cosa seria, c'è un sacco di vivai di ragazzini perché che vengono fino adesso ha detto solo cazzate, no? Sì, abbastanza abbiamo detto un sacco di belle cose, però c'è un sacco di vivai di ragazzini che vengono educati al calcio, che sono ragazzini che comunque crescono ed è bene farli giocare, cioè meglio gli italiani degli stranieri. Tu vorresti tornare a tre stranieri che uno straniero, ma quella era una bella formula perché comunque dava modo ai nostri vivai di andare in prima squadra. Ma il calcio è un'altra cosa, anzi il bello del calcio è proprio questo, che ci sono uomini da tutto il mondo. Il calcio è cosmopolita, questo lo sappiamo, lo dico io per primo, però altrettanto vero che quando avevamo i tre stranieri vincevamo i campionati del mondo, oggi no, spiegatemi perché. Anche per altri motivi, dai, quali sono? Perché abbiamo una generazione di gente meno forte rispetto a prima, dai, su. Forse, anche nel 2006 avevamo un sacco di stranieri eppure abbiamo vinto lo stesso. Questa cosa non c'entra assolutamente nulla con la nazionale, con io non sono d'accordo con la nazionale, dai, con la maglia, tu cioè vedere un nero o un marocchino, bellissimo, uno dirige marocchino, ma non, con la, ma non con vuol la dire nulla azzurra. Ma che sia nero non vuol dire nulla, basta che sia nato in Italia, può essere, se è nato italiano. A Zanzibar non ma va sì, bene, ma io dico che è un riconoscimento a chi fa promozione della pratica sportiva e dedica tutto il suo tempo libero a far crescere sti vivai. Io la penso così. Vabbè, cioè, io penso che sia una roba. Se uno ha il passaporto italiano può giocare alla nazionale italiana. Vabbè, ma poi lo sappiamo, le abbiamo lette tutte le storie sui passaporti italiani, no? Cioè, in passato cosa accadeva? Ah, perché sì, c'è la tratta dei passaporti. Dai, cioè. La tratta insomma, dei passaporti. Questa è cronaca degli anni passati, no? Senti, voglio capire una cosa. Secondo te come leader Berlusconi è finito come leader del centrodestra? Ma guarda, questo non te lo so dire. No, dimmi, io so che rappresento un partito che sta crescendo. Ma Berlusconi come leader ormai è finito. Diciamo, l'ha detto il tuo leader, Salvini, a noi l'ha detto. Guarda, io penso che Berlusconi abbia comunque un partito da seguire, dopodiché se vuole candidarsi come leader. Ma è roba vecchia ormai, o no? Ma no, un po' guarda, passato. Io penso che lui, se vuole candidarsi come leader del centrodestra, si candiderà alle primarie, però, faranno dire, qualcosa. Secondo me è il passato Berlusconi. Oggi c'è una nuova generazione. Non ti comprometti nessuna alleanza con Forza Italia? No, ma non è un problema. Magari da Arcore non ti chiameranno più, ma non ti hanno mai chiamato. No, ad Arcore non mi hanno mai chiamato. Questa è una verità. Ma le scene eleganti non sei mai stato invitato? No, eppure hai il physique di Rolda, scene elegante. No, io non vado alle cene, sai. Questa è stata la mia fortuna nella vita. Perché se tu noti le intercettazioni, ci sono sempre le cene di mezzo, no? Sì, quelle belle. Le pre-cene e le dopo-cene. Soprattutto a Roma, le cene romane. Quelle io non sono mai proprio andato, quelle. Cioè, tu abiti a Roma però. Io adesso sì. Luca Zaia, grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci. Non si voterà più, ricordatelo, non si voterà più. Una volta si faceva l'appello al voto, oggi non c'è più la democrazia. Ma perché non c'è la democrazia? Ah, perché adesso hanno detto che forse si voterà il 7 giugno e il ballottaggio il 21 giugno. Questo è vero, però. Cioè, voteremo in estate. Se l'avesse fatto qualcun altro sarebbe avremmo successo. I seggi sotto gli ombrelloni. Ma che sarebbe successo? Avremmo le urne, se avesse deciso Berlusconi di votare forse a giugno, forse che sarebbe successo? Finimondo. Avrebbe detto più voto per tutti. Arrivederci, ciao, arrivederci. Ciao, buona serata. E adesso fermi tutti, una magnifica segreteria telefonica vi voglio far ascoltare. No, quella è terribile, segreteria. No. Segreteria telefonica. Alle 18:30 Radio 24 diventa Radio 24 centimetri. Fantastico. Notizie sul traffico. Ho appena preso un tir tra le mele. Che goduria! Dove sei, Riccardo da Roma? Torna, mio maestro, a combattere contro le secche di merda, ma soprattutto contro quel pagliaccio radical chic di Pastronzio, maledetto. Oh, Parenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Oh, Parenzo, rom del cazzo che sei, sei un ladro per rapire. Io mando questo messaggio ai omosessuali, gay, culattoni, snotch, come li chiamate voi. In ogni caso, per dirvi che mondo è mondo, cazzi in culo non fan figli. Cazzi in culo non fan figli. Quindi, si mettono il cuore in pace, continuano a darlo e a prenderlo. Crociani, quando tiro in ballo Toscani, sai cosa mi succede a me? Mi viene da cagare, proprio da vomitare. Coglione! Ma mi spiegate come mai Bianconi c'ha la stessa voce del divino Telma? E togliete un po' di sta cazzo di pubblicità, date un affanculo. Vai, diciamo che è la pancia del paese, no? La pancia, sì, la pancia, è la feccia e anche la pancia. Questo linguaggio così, no, sobrio, sottile, sempre misurato, molto da Radio 24, no? Devo dire questo linguaggio che... Va bene, Lorenzo da Milano, dai, sì. Lorenzo. Sentiamo. Tu ti devi incazzare come mi incazzo io, queste due ci hanno preso per il culo, gli abbiamo pagato pagato il riscatto e queste stronze vogliono ritornare, io voglio indietro i miei soldi, tu ti devi incazzare e tu che hai una radio devi far sentire questa cosa, perché non è possibile. Non è possibile che siamo andati a prenderle e queste vogliono ritornare, ci danno indietro i soldi e poi facciano quel cavolo che vogliono. Sì, però dare indietro i soldi mi sembra complicato. Che non vadano più lì dovrebbe essere impedito con un decreto. Ma perché? Credo. Se queste vanno sì, a fare... No, io credo che il governo Renzi dovrebbe mettere un decreto legge ad hoc, per le di due... quelli ad personam, questa volta va benissimo un decreto ad personam, per impedire a due ragazze di tornare in Siria, perché è assurdo che tornano in Siria, o no? Dove è assurdo? Sei d'accordo? Se vogliono andare a fare volontariato in Siria, ma poi non è che fanno aiuto, ma mi ho capito, rapito. Ma uno Stato, qualsiasi Stato, anche gli americani, vuole salvare i propri concittadini. Scusa, è tutta sta polemica, hanno pagato... Non avevano detto ma a nessuno, ma non è che vai a far volontariato. Comunque, con l'autorizzazione su questa vicenda c'è un giallo, perché abbiamo intervistato, poi possono star poco simpatiche, nella giornata di oggi abbiamo intervistato un signore, poi ve lo facciamo sentire, che è il padre, il quale dice che tutto è inventato, cioè il giornalista di Repubblica che oggi ha scritto quell'intervista si è inventato tutto. Questo non credo. Tutto. Silvano da Bergamo, vai. Pronto? Sì, dimmi. Sì, buonasera. Allora io volevo dire una cosa, dopo ce n'è anche per Parenzo. Allora, sì, pronti, il caso di Cinisello, Parenzo, cosa ne pensa di quello che ha rapito quella ragazza svedese? Vai a Bergamo, che è successo a Cinisello? Ha rapito la ragazza svedese e questo qui era già stato in carcere, è uscito nel 2008. Io adesso non metterei in carcere solo questo, metterei anche il giudice che l'ha fatto uscire. No, però aspetta, fermo, questo qua è italiano però, o no? Sì, no, non mi interessa a me di dov'è. Sto dicendo che non metterei in galera solo lui. Un italiano che poi è uscito dal carcere. E cosa devo fare io con questo? Anche il giudice, io metterei in galera e butterei via la chiave, anche il giudice che l'ha fatto uscire del carcere. Non c'è dubbio però che fa incazzare la gente, io lo capisco questo qua, perché un tizio che è stato aveva dei precedenti per violenza sessuale, che è, come dire, libero poi di stuprare ancora. Ma chi è che difende questa roba? Tu li difendi spesso. Ma ho difeso proprio niente io. Tu difendi il fatto che questi qua possano uscire presto dal carcere, che il carcere sia solamente una forma di rieducazione e dunque bisogna uscire più presto possibile. Sei tu che difendi spesso queste cose, sei tu contrario al carcere duro, eccetera. Carcere duro contrario a pene severissime, duro per i mafiosi, da ascoltare fino alla fine. Sei ma tu chi che è sei accusato spesso di questi reati gravissimi? Ma anch'io mica li voglio fuori, ma stiamo scherzando. Amici miei, siamo al flop. Vabbè, sentiamo un po' di cose degli ultimi giorni. D'Alema che dice a Renzi che il PD è diventato un partito padronale come quello di Berlusconi. Sentiamo. Una componente minoritaria, momentaneamente, però in un partito a forte conduzione personale e anche con un certo carico di arroganza, diciamo, può avere un peso soltanto se si muove con coerenza, con assoluta intransigenza. Beh, poi la Mussolini, perché no, aspetta, dopo. Cosa? Arroganza, ha detto da D'Alema, sì. Mussolini, la frase sulla De Girolamo, ma anche quella sulla Boccassini è divertente. La Boccassini maniaca sessuale, prima De Girolamo, dai. Chiudo con la De Girolamo. Ammazza questa, che faccia! Scusatemi, però sono avvelenata. Allora la De Girolamo fa berlusconiana che non si capisce e non si capisce manco come è diventata deputato. Uno. Allora non c'è, io lo so ma non ve lo dico. Allora un certo c'è di mezzo qualche orsetto. Allora a un certo punto berlusconiana. Poi di punto in bianco anche lei diventa alfaniana, come fossero extraterrestri. Boccassini. C'è la Boccassini che è una maniaca sessuale, si può dire? È una maniaca sessuale! Bene, andiamo a Prato. Igor, vai, Igor. Buonasera. Volevo solo dire che ricordava Genta oggi a tutti i convocati che Pepito Rossi, Giuseppe Rossi, il giocatore della Fiorentina, non potrebbe giocare, facendo il ragionamento di Zaia, non potrebbe giocare perché è nato in New Jersey. Certo. Sì, è nato a New York, però c'ho Giuseppe Rossi, però è italianissimo, no? Sì, è italianissimo, hai ragione, ma non se può uno giocare. Va a vedere. Sì, sì, vabbè. Ma io sono contrario a questa cosa che ha detto Mancini. Cioè, per me Mancini ha detto una gran cazzata. Cioè, diciamolo chiaramente: Mancini ha detto una grandissima minchiata. In nazionale può giocare chi ha il passaporto italiano. Poi tre stranieri, quattro stranieri, cinque, quello non me ne frega niente. Penso non si possa tornare indietro. Però chi ha il passaporto italiano, poi bisogna vedere quanto sia facile ottenere il passaporto italiano. Basta avere il trisavolo italiano e ti danno il passaporto italiano. Questo succede. Ma uno dovrebbe dire gioca della nazionale chi è bravo a giocare a pallone, non delle follie così. È un non problema. Certo, vedere in nazionale uno che si chiama Vasquez o uno che si chiama non so come, quindi... fa un po' impressione, ma chi se ma ne frega? Ma il mondo è così, ma tanto la Francia è diventata forte, di la Francia erano tutte pippe prima, è diventata forte appunto. Quando hanno cominciato a mettere dentro bravo, gente. Stai rinsavendo anche ma tu ma non sto rinsavendo, l'ho sempre pensato la dai. Padania libera ma dai insomma, forza dai, Antonio provincia di Arezzo, ma che c'entra la Padania libera questa cosa Antonio vai. Sì, ciao ragazzi, complimenti. Sentite, io voglio dire solo una cosa in relazione alle due ragazze che sono state insieme a fare solidarietà. Sì. Nulla, io mi impegno se necessario, ce le mando volentieri, ce le mandiamo un bel biglietto di sola andata, eh? Non ci perdiamo nulla, rimandiamo. Ma io non ho capito perché c'è questa acrimonia. Perché la gente non sopporta che due vanno in Siria. Sì, la gente, la maggior parte della gente che è qui e la maggior parte della gente che ci sta ascoltando e credo la maggior parte degli italiani non sopporta il fatto che invece di andare a fare solidarietà in Calabria, non so dove, a casa loro, eccetera, vadano senza autorizzazione in Siria a rompere i coglioni. Alla fine a rompere i coglioni al contribuente italiano, perché diciamo la verità, qualcosa sarà stato pagato o no? Eccoli là. Cosa? Quelli della Padania, miei amici, lei. Eccoli là. Via. Sono venuto qua a Torino. In Antonio, dai, finisce. Sono Antonio, che c'entra adesso Bossi con questa cosa? Venuto, perché sei venuto qua a Verona a rompere i coglioni pure tu? Sono venuto qua a Torino, in Veneto. Sono venuto qui ma non è Torino, ma è in Piemonte. A Torino, in Piemonte. Sì, Piemonte. Capisco, sei andato proprio. Capisco un cazzo di geografia, io lo sai. Ho detto Padania, penso che sia tutto il nord. Comunque sono venuto qua a Verona per dire che bisogna votare per Zaia, presidente. Ah, Zaia, beh, certo. E anche mio figlio, il trotto, abbiamo messo in lista di nascosto. Ma no, in Veneto. Abbiamo messo così di nascosto. Padania libera. Vabbè, adesso stai zitto un attimo, sera tu. Antonio, vai, Antonio. Allora? Se con due biglietti si spende una cifra, se facendo tre biglietti si spende di meno, ci si può mandare anche Parenzo a fare solidarietà. Anzi, sì, se d'accordo, visto perché, che... Perché non vai a fare cooperazione in Siria? Perché esatto, lo mandiamo a fare... Cooperazione in Siria. Ma un matto chiama e questi applaudono. Gli facciamo fare una radio 24 dalla Siria. Guarda, ma io non ho nessuna intenzione di andare né in Siria, né in Iran, né vai in a fare radio Israel in Siria, che ma ti danno la cosa dopo un secondo, così. Che vado. Io vado negli Stati Uniti. Vado in paese nell'Occidente, poi sono andato lì anche alcune volte, certo, ma non andrei mai. Vabbè, a è con noi Oliviero Toscani, eccolo qui. Fischi, applausi, c'è gente che ti vuole massacrare qua. Dov'è il giubbotto antiproiettile qui? Dov'è? Ho il giubbotto antiproiettile. Fischi al vento. Chi fischia? Si alzi, abbia il coraggio di alzarsi. Ma guarda che si alzano, si alzano. Guarda, io voglio capire una cosa, Oliviero. Ti penti di quella frase là? Perché prima ti sei inginocchiato davanti a Zaia? O era uno scherzo? Pensa, c'è cascato. Che strezzo che sono. Era ubriaco. No, ma mi sembra di essere su un Golgotha fra i due ladroni. L'avete sentito come parlano questi due qua? Questi due qua? Due ladroni. No, perché? Gesù Cristo qua fra voi due. No, ma io devo dire che mi sono scusato con Gaia. Ho mandato una lettera. Con Zaia, non Gaia. Gaia si chiama? Zaia. Cos'è il nome del governatore? No, io ho detto Zaia. Tu hai detto Gaia. No, tu hai detto Gaia. Io ho detto Gaia. Ma Gaia fa del vino buonissimo. Sì. Gaia con la J, però. Allora, mi sono scusato. Una lettera ufficiale. Scusato nel modo più... Ma non ti sei scusato. Era una buffonata quella lettera. Hai detto che i veneti, che ce ne sono un sacco qui, sono nel DNA. Hanno gli avi tutti ubriaconi. Cioè sono gente che pensa a bere, che si ubriaca dalla mattina alla sera. Magari è anche vero. Qualcuno ha detto è vero però. No, ma aspetta un momento. Adesso è due ma giorni. Ma non ti vergogni a venire a Vinitaly dopo quello che hai detto? Hai detto una cosa incredibile sui veneti. Vieni a Vinitaly a presentare il tuo vino così in carrozza. Mi lasci parlare o no? Vai. Hai smesso o no? Vai. Allora, è due giorni che sono a Vinitaly. È due giorni tutti i veneti vengono, mi abbracciano, vogliono il selfie. Toscani finalmente ci ha sdoganato. Così parlano. Ci ha fatto l'outing, siamo contenti. Parlano così, fantastici, no? Divertenti. Sì. Tutti con un senso degli umori. Ma uno per che colpa ti ha detto... di una minoranza. Cioè, un po' mona, scusate, un po' politici leghisti tutti morti. Ma no, morti. No, non ma è dillo, abbi il coraggio di dire quello che no, pensi. Io fa il coraggio di dire quello che voglio io, non quello che voglio tu, capito? Se no ti do una sberla, lasciami parlare. Allora? Mica male da una sberla. No, no, tanto no. Alla radio non si vede, dai, lasciamo la parte. No, che sberla, che sei matto, sei? No. Dai, una sberla. Ma no, no, no, quello è il camera da letto, le sberle. No. Tu non sì. Le dai le sberle. Come il camera da letto? Le dai le sberle o no? Checca, un po' reggio. No, è un po' checca, Ma tu picchi cripto. Quando fai sesso o no? Qualche beh, schiaffo logico. Lo dai, no? È logico. Beh, è logico. Beh, questo, abbiamo scoperto una cosa nuova. Cioè, Toscani picchia la sua compagna a letto. È interessante come cosa. È vero o no? Ma sai che è vero? È vero? Ci avevo mai pensato. Ma voi siete non ci avevi mai pensato? No. Vabbè, allora io voglio capire se ti sei pentito oppure no. Pentito no. Non ti sei pentito, vabbè. Dunque, però mi diverte chiedere scusa ai veneti, quella minoranza di veneti, che si sono offesi. Spero che l'accettino. Ma no, ma qui non è questione di che tu devi chiedere. No, vi posso garantire che da due giorni io non solo consensi, ho solo uno stand qui al Vinitaly e non ho portato il giubbotto antiproiettile, sì. Anche se ho sentito che qui si spara, Sì, si spara. Sì, si spara, spara molto, spara, si spara. Qualcuno sì. Meno male, meno male che qualcuno si arma, perché la gente viene dentro casa a romperti i coglioni, a rubare, a stuprare. Qualcuno si può armare o no? Se vede qualcuno entrare dentro casa tua. Può sparare o no? Pam pam pam pam pam. E sparatevi anche le seghe. Ma non è possibile. Ah no, è sbagliata come cosa. È sbagliata. Anche questo è sbagliato. Anche ma come fai a dire armatevi? Ma dico, se mica devi decidere tu chi devi sparare, ma dai, ma è assurdo. Ma siamo un paese civile o no? Perché l'America è civile. L'America è in civile. Per questo l'America è in civile. Per cioè questo l'America è in civile. Ovvio. Come per la pena di morte. Scusate. Siete gatto e la volpe siete, non ho capito. No, ma tu parli di un sistema siamo di... Siamo la razionalità. Parla in un sistema di retroguardia. Allora, sì, se parli di un momento di inciviltà... Io dico solo una cosa, che chi vuole, chi può, e soprattutto chi è in regola, può tranquillamente, dovrebbe sparare. Tranquillamente armarsi, poi se vuole sparare come? Lo spara. E se vedi entrare qualcuno dentro casa tua, se io vedo entrare, io non sparo perché non mi piace, però se avessi un'arma e vedo entrare qualcuno dentro casa mia, gli sparo in fronte. Per me gli sparo in fronte. Ma io non ho il coraggio, però non posso essere contro uno che spara in fronte a uno. Come hai fatto a sposare uno così? No, non mi ha sposato. Non so io. Come hai fatto a sposare uno così? Dimmi vabbè, un po', torniamo al vino. So io. Torniamo al vino. Eri cieco. Allora, il Veneto, eccolo qua. È una coppia il di Romano, fatto, eccolo qua. È una coppia di... Sì, questo è vero. È una coppia di fatto fondata sulla radio. Poi null'altro in più. Vabbè, io voglio capire una cosa. Allora, non chiedi scusa al Veneto. No, ho chiesto scusa, lo chiedo. Scusatemi, Veneti, che mi siete offesi. Ma ti sei pentito? Ma era finta, cosa devo farti? Tira giù le braghe? No, ma hai fatto finta prima... No, ma hai fatto finta, è tutta una presa per il culo. In realtà, secondo te, sei convinto di quello che hai detto? Ho chiesto scusa e chiedo scusa ai veneti che si sono offesi. E gli altri ridano con me. Ma ti sono arrivate minacce però per questa cosa, se vi posso garantire che se questi veneti qua mi faranno causa e mi porteranno in tribunale, io porterò più di 2 milioni di veneti che verranno a testimoniare in mio favore. Ah, questa è la storia. Sicuro, certo. Sarà così. E sarà molto divertente. E sarà molto divertente. Grazie, vi ringrazio. E sarà molto divertente. Vabbè, ragazzi. Sei... Ragazzi che? Ho capito. Io ho fatto fare l'outing. A noi? A voi veneti, sì. Ah. Io voglio capire una cosa. Allora, Mancini ha detto questa cosa. Tu sei interista. Sì. Ti vergogni un po' di quello che ha detto Mancini? Io. Chiedo scusa di essere interista. No, dai, no, va bene. No, questo posso dire. Bravo, sì, questo... Però sono interista. Sei interista, si sa. Sei interista. Il tuo allenatore, Mancini, ha detto che il nazionale può giocare solo... No, è l'allenatore dell'Inter, non dell'Inter. È il mio. Vabbè, no, è non stato è, recuperato non è più il tuo allenatore. Da chi non è più Moratti. È insomma. Interista nonostante Mancini. No, povero Mancini, ce la mette cioè, tutta. Cioè, tra l'altro, non potrebbe giocare lì. Il padrone dell'Inter, secondo la teoria di Mancini, non potrebbe giocare nell'Inter, ma capito? Dico, il filippino. Uno che fa... L'allenatore di una squadra si chiama Internazionale, perché l'Inter sì, è internazionale. Sì. Questa è forte, cioè, sì. Questa è la visione di Milano, una squadra internazionale. Allora? Che dice una cosa simile. È da cacciare subito. Non no, non cazzo. È cacciare, ma dillo, è piccolino. Tanto l'Inter ha pochi problemi, se cacciano pure Mancini, dai. Intanto lo cacceranno, sicuramente, se avanti così dura poco. È un controsenso, dice, ma un controsenso. Basta, bisogna giocare bene a palla, poi che nazionalità, chi gioca non mi interessa. A me piace andare a vedere... giocare. Ma questa cosa del passaporto italiano è penoso, dici te, questa cosa che ha detto, cioè ma chi, una roba è che come, uno nato in Italia oppure il passaporto italiano è come i veneti che si sono offesi, una roba di retroguardia. Vabbè, no, però c'è tutto un ragionamento sul fatto che bisogna valorizzare quelli che gli italiani che giocano. Ma non li valorizzi così. Bisogna a pallone è bello quando è giocato bene. Poi se hanno che passa. Beh, per cui tu che Conte juventino per antonomasia nazionale ha fatto benissimo a comunicare. Io non ho mai sposato una donna italiana. E perché ti fanno schifo? Ma no, scusa, qualche donna hai sposato? Però, è questo è interessante. Ma nessuna era italiana. Vabbè, ma quanti? Fanno... Allora devo avere il passaporto italiano. Ti fanno schifo? Perché ti fanno schifo le italiane? Perché che mi fa? Che ho detto questo? Non hai mai sposato un italiano? Ho cioè, detto sposare, mica trombata. Non sarà un caso, però. Non ma quante ne hai sposate, scusa? Po'. Due, tre? Non si dice. No, quanti matrimoni? Tre matrimoni. No, sposate, insomma, figli con tre. Adesso ti sei fermato però. Ma non si sa mai, sei rovinato, certo. Non si sa mai, sai. Si è rovinato, certo, è chiaro che ti sei rovinato. Vabbè, tu hai sempre la Lega, che cos'è per te? Diciamo la verità. Sei qua in terra leghista. Una volta tu dissi che la Lega è una tu dissi che non è un partito politico. Ma tu dissi che la Lega è una diarrea. Confermassi? No, che non era un partito politico. Ma una diarrea. Ecco. Diarrea politica, cioè una diarrea. Diarrea politica. Ti fa la Lega ti fa cagare. Questa è la verità. No, cioè sì. una sai quando un prolasso cioè, politico. E lì è la Lega, esce fuori la Lega. Ma dico qua devo dire che questo è roba da eroi, dire queste robe qui a Verona. Sì, questo è vero, sì. Mia nonna era veronese, vi dico che mia nonna era veronese. Allora, sì. Ci sono 30 secondi, allora, poi mi è arrivato un messaggio da Farinetti che dice il vino di Olivera è molto buono, però questa qua è una marchetta che io non volevo fare. Di Oscar Farinetti. No, è ottimo, ha detto che dice il vino buono. Di Olivera è molto buono, Oscar, non compratelo, non compratelo, però è molto buono. Va bene. Giulio da Verona, poi torniamo con Toscani che è qui caldissimo, caldissimo. Giulio da Verona, perché parleremo fra poco delle suore di clausura, un argomento che ti sta molto a cuore. Rapanti. Come arrapanti? Arrapate. Col Papa erano arrapate, dice. Secondo ha detto che non l'ha detto esattamente. No, l'ha detto Pepe. No, beh sì, un po' l'ha detto. Dai, l'ha detto. Ma stiamo parlando comunque del cardinale. Per una volta mi dà ragione. No, è vero, è vero. Che un cardinale è stata una scena penosa, bisogna dire. Non è che il cardinale non sempre dire le bugie. Cioè, tu secondo te quelle suore di clausura che piombavano addosso al Papa? Ma no, erano come dire arrapate religiosamente. Ma che religiosamente? Ma so, possono esistere ancora le suore di clausura nel 2015? Dimmelo. Ma ti prego, dammi una parola di conforto. Di io e lui che siamo anticlericali fino al midollo, diciamo che le suore di clausura sono un controsenso. Finché ci sono uomini come te, ci sono tante donne che vanno in clausura. facile questa, lui ti fa dire le cose. Ma hai detto che si arrapano le donne addosso al Papa, le viste arrapate le suore è un po' arrapate religiosamente arrapate. Ma che religiosamente arrapate, dai, arrapate religiosamente. Ma possono esistere forse meglio arrapate religiosamente. Dimmi qualcosa sulla suore di clausura, ti prego. Beh, insomma, anche loro avranno le loro voglie. Credo che sia umanamente, cioè, è impossibile che una si dedichi tutta la vita a Dio. Ma bellissimo, è possibile, anche romano. E arriva il rappresentante di Dio sulla terra, tu cosa faresti? Ce li vuoi saltare? Sei l'unico uomo, dice, l'unico uomo che loro vedono, a quel punto lì salti addosso, no? Legalmente giusto. È giusto che si piombino addosso, che lo tocchi. Come le gruppi sui grandi rockstar. Beh, come delle gruppi, sì, delle suore gruppi. Delle suore gruppi, vabbè. Perché Giulio, le suore non possono fare le gruppi? Sembravano delle gruppi, effettivamente. L'ha detto anche il cardinale Sepe. No, erano estasiate dal fatto di. Io però voglio raccontare una teoria. Sì. Ho saputo che Sgarbi, tra l'altro, ha detto: ho 58 fidanzate, sono numerate come le litografie. Ecco chi sono le mie preferite. Un 58 fidanzate, un cioè, elencate come dall'1 al 58. Sì, dall'1 al 58. Tu che più. Dici? Credo di più. Tu che dici? No, poi ce n'è una ufficiale. No, se non gli fai niente a queste donne, possono essere anche 200. Ah, perché lui non fa niente con le donne? Sì, beh, questa come quadri, mica. Cioè, guarda e basta. Cioè. Li guarda estasiato e basta. Sì. Beh, ognuno ha i suoi modi. Sì, ognuno ha i suoi modi, effettivamente. Giulio Verona, vai, Giulio. Io sono uno dei pochi, sì, ciao. Io sono uno dei pochi, come dice il vero Toscani, che pensa che lui sia un coglionazzo. Ma sai perché? Ma tanto intanto non dovrebbe arrabbiarsi, perché se lui dà degli ubriaconi ai veronesi e devono prenderla sportivamente, anche lui sorriderà e non si arrabbierà sul mio pensiero. Ma io lo dico in termini percentuali. Ero a cena la sera della sua uscita con 10 miei amici parlavo di Toscani e aveva quel coglionato lì. Per cui le statistiche divergono. Evidentemente al Vinitaly qualcuno beve, allora magari lo abbraccia anche. Per cui io penso che se l'ha detto, l'ha detto per provocare. Avete facile... sentito? Essendo ubriaco, sentite. Il ragionamento scusa, è facile della pubblicità. Siccome ubriaco ti abbraccia. Va bene, Giulio, ho capito. Giovanni, Milano, vai. 800 24 00 24, vai. Giovanni. Sì, sì, buonasera. Volevo parlare per le due ragazze che volevano ritornare nuovamente in Sirio. Sì. Perché torni in Sirio? Secondo me siamo davanti al caso classico della truffa napoletana, del pacco e contropacco. Perché se cioè? Le donne nuovamente nello stesso posto è perché sanno che poi verranno pagati nuovamente il cazzo. Cioè, sì, non so con chi sono d'accordo, francamente, però può anche succedere una cosa del genere. Capito poco, però. Non ho capito. Non ho capito che cosa c'entra il pacco. Là, contro... sono d'accordo con i rapitori. Secondo lei sono d'accordo con i rapitori? Non ho capito. Era la prima. Mi sono spiegato? E qui ho capito ancora meno, però, amico mio. Cioè, e qui, Giovanni, cerca di spiegarti. A te ti sta sulle palle il fatto che queste quattro ragazze. Giusto. Allora, queste ragazze se ne sono andate a fare le tondelle della buona samaritana in un paese dove c'è una guerra. Si sono trovati in mezzo a dei casini e noi, povero popolo italiano, abbiamo dovuto pagare a quello che si dice 12 milioni di euro. Se loro adesso vogliono ritornare nuovamente nello stesso posto, evidentemente sanno che corrono lo stesso rischio. Quindi io, magari, sicuramente mi sto sbagliando, ma non vorrei che siano d'accordo con quelle che hanno incassato i soldi o sono d'accordo con quelle che le hanno pagate. Secondo questa teoria sono d'accordo con quelli che le hanno rapite, con quelli che le hanno rapite, perché forse magari hanno preso pure dei soldi loro, che ne sai? Ma questo non si so che cosa ha preso. Mi è arrivata una notizia che Sgarbi si candida a sindaco di Milano. Sì, Carlo scende provincia. In campo con una sua lista. Bene, bisogna votarlo. Carlo, provincia di Livorno, vai Carlo. Sì, pronto. Salve. Dimmi. No, io volevo intervenire sull'aspetto del Toscani che critica il Veneto e il soggetto che spara all'intruso. E quando da queste parti il Toscani ha una bellissima azienda agricola che è tenuta recintata come un bunker. Chi si avvicina È normale, però non penso che spari Toscani se uno si avvicina, no? Se uno entra dentro casa o no? Lascialo parlare, va bene. Allora? Niente, volevo far presente questo, che la proprietà... Cioè questo chiava per dire Toscani vive in Toscana in un bunker, ma che vuol dire? Che bunker del cazzo c'ho? Ma che vuol dire? Una casa normale, ma è protetta però, ci saranno le mura, no? Cioè, ci sarà, i recinti ci saranno, mica entrano i rom tutti quanti quando vogliono, ma no? Ma che rom, non ci sono? No, ogni tanto trovo qualcuno in casa, dico cosa fa qui? Dai, ride, è vero. Ma dai, non diciamo stronzate, no, vieni a casa tua, gli dai due calci in culo come è normale che sia. No, io sono stato, ma che c'è un cancello normale, che cos'è? Non di ferro battuto con sugli rani. Io non capisco perché te la prendi con quelli che sparano ai rapinatori. Non ma scusa, ma la prendo con uno che abbiamo una polizia, ma dico uno si mette a sparare, è la fine se cominciamo a far questo, ma è assurdo. Ma non è la fine. L'autodifesa diventa a un certo punto fondamentale. Se ti fanno rubano in casa 12 volte, tu hai il coraggio. C'è lo Stato. Ma lo Stato qualche volta non c'è. Che dici che c'è? Stati Uniti, viva Dio, stanno ridiscutendo la norma sulle armi, sulla detenzione di armi da fuoco. Ma perché, scusa Cruciani, dimmi, perché tu spari a quel delinquente che entra in casa? Sì. D'accordo, un delinquente. Ah, che bella soddisfazione. Pensa se quel delinquente fosse tuo figlio. Perché si pensa sempre di essere dalla parte di chi viene offeso. A tra poco, Giornale Radio. La Zanzara. Sempre da qui in diretta da Verona, dal Vinitaly, davanti a un grande pubblico con Oliviero Toscani. Con una piccola delegazione del gruppo dei fancazzisti e nulla facenti Riccardo da Roma Fans Club, che salutiamo, che sono qua. Va bene, però fermi tutti perché devo intervistare una persona che oggi ha detto una frase molto forte. Sì. Siccome la persona la conosco, voglio capire bene perché la frase è fortissima. La frase fortissima e domani sarà su tutti i titoli dei giornali. La frase è questa. Sapete cosa è successo a Tunisi, no? successo a Tunisi, quelli morti, italiani, eccetera, erano alcuni piemontesi. Un attentato terribile. In particolare erano, credo, dipendenti del comune, eccetera, eccetera. Sì. Allora, la persona che è qui è Gianna Gancia. È qui dove? È qui collegata, non è qui a Verona, è in Piemonte, capogruppo leghista in Piemonte. La frase è questa: i morti a Tunisi erano quelli che ci chiamavano razzisti. Questo è brutto, cioè ha detto una cosa sostanzialmente, vabbè, sono morti, però, questo abbiamo capito tutti, non è bellissimo, sono morti però erano quelli che ci dicevano razzisti per le cose che dicevamo sull'Islam, eccetera, eccetera, eccetera. Gianna Gancia, tra l'altro, come sapete, come molti sanno, è anche la compagna di Calderoli, la maglietta, eccetera, eccetera. Buonasera, buonasera. Dottor Cruciani, buonasera, buonasera dottor Parenzo. Cara, come sta, cara? Parenzo ha le mani in faccia. Ha messo come le mani... sta, cara, la mia Gancia? È stata una giornata difficile. Sì. Vabbè, molto difficile. La sento affranta. Sono molto amareggiata. Perché dice? Amareggiata? Perché quella frase è una stupidaggine, cioè è un errore madornale, pazzesco, no? Dottor Cruciani, lei lo sa benissimo che io non sono... Non mi chiami così, però. Come? Non mi chiami così, sennò mi fa impressione, dottor Cruciani. Dici che non se ne è. No, Cruciani. Allora parlo. Vabbè, con dai, Parenzo. No, è uguale, dai. Adesso arrivo. Guardi, vai. Torno alle cose serie perché le ribadisco, oggi per me è stata una giornata di amarezza totale e sono qui al telefono con voi e proprio perché non posso accettare di apparire quella che non sono. Non mi voglio sottrarre, mi avete invitato, vi ringrazio, ma il punto di partenza che deve essere chiaro e che voglio ribadire senza fraintendimento è che il rispetto, il cordoglio, la pietà per le vittime dell'attentato a Tunisi per me sono fuori discussione. Guardi, glielo voglio dire, la ringrazio per darmi questa opportunità. No, va bene, no, non mi deve ringraziare perché qui non c'è nessuno da ringraziare. Allora, perché mi dà questa opportunità. No, la frase è questa: quelli che sono morti a Tunisi ci criticavano, dicevano che eravamo razzisti. Mi rendo conto che si tratta di un'affermazione forte, e lei stessa a dire che è un'affermazione forte. Allora possiamo dire che questa frase è una stupidaggine pazzesca? Qualsiasi cosa pensavano della Lega, quelli che sono morti a Tunisi non c'entra niente col fatto che poi sono morti, o comunque è sbagliato mettere in mezzo queste cose, sì o no? Cioè, che cosa ti ha preso? Il ragionamento in conferenza stampa era che i media, certi media, certi politici, certi intellettuali, certi cittadini e le persone, perché siamo tutte persone, che hanno linciato noi della Lega quando tanti anni fa avevamo coraggiosamente, dico io, criticato la deriva del fondamentalismo islamico, e che ora sono a piangere i morti, come hanno già fatto a Parigi dopo l'attentato ai vignettisti di sinistra, tra l'altro, di Charlie Hebdo, è una totale ipocrisia. Quella frase era una picconata all'ipocrisia di un muro che abbiamo in Italia, un muro di ipocrisia che dobbiamo abbattere, perché con questo buonismo non andiamo da nessuna parte. Vabbè, d'accordo, però questo qua è un ragionamento politico che ci può stare, la critica a chi non ha tenuto in conto l'estremismo dell'Islam, ma che c'entrano quelli morti a Tunisi? È quello che non capisco. Uno può dire i politici di sinistra sono stati, o politici di un altro colore politico, sono stati ipocriti perché hanno sottovalutato la forza dell'Islam, è d'accordo, l'estremismo islamico. Ci può stare questa polemica, ma che c'entrano quelli morti a Tunisi? Guardi, dottor Cruciani, le ribadisco che rispetto e cordoglio per le vittime dell'attentato a Tunisi sono fuori discussione. Guardi, se allora è stato anche lei, altrimenti non possiamo andare da nessuna parte, veramente. No, ma questo, d'accordo, ma io non dico che non provi, diciamo, nei confronti di quelle persone lì cordoglio. Ma a chi era riferito? Allora? A chi era riferito? No, dice era riferito agli intellettuali o ai politici che hanno criticato la Lega nel passato. Quindi non al fa, perché qualcuno ha detto, siccome senta, lo so che quando io guardo in televisione tutti questi che parlano di fondamentalismo islamico e delle magliette di Charlie Hebdo, peccato che li ho dall'altra lato della televisione, perché altrimenti altro che picconata al muro dell'ipocrisia. Ma lo sa, mandate a vedere un remake degli ultimi 8-9 anni. Cioè, perché se li avesse davanti cosa farebbe? Traffico. Guardi, la battaglia contro il fondamentalismo si combatte prima di tutto attraverso la cultura e io non posso non sottolineare che da mesi sono impegnata in conferenze con nomi prestigiosi. Ma i morti di Tunisi sono i morti di Tunisi, non sono gli intellettuali di sinistra, i politici che hanno criticato la Lega, sono quelli morti. Che ci avevano questi morti? Hanno criticato la Lega, erano consiglieri, erano dipendenti del comune di Torino, impiegati del comune che hanno criticato la Lega. Che male hanno fatto sti morti? Il rispetto e il cordoglio per, la, per le vittime dell'attentato a Tunisi è fuori discussione. Lo ma questo l'abbiamo detto, questo e continuo detto a dirglielo. Vabbè, la battaglia contro il fondamentalismo si combatte con la cultura. Se un popolo sta davanti alla televisione e non si informa... Cioè, chi è che non si era informato? Ah, quelli che sono andati a Tunisi hanno sbagliato ad andare a Tunisi? No, assolutamente, assolutamente. La colpa chi è non... che non si... No, non ho capito che c'entrano i morti. Perché ti è venuto in mente i morti di Tunisi? Li conoscevi? Era gente che ha criticato la Lega? Perché se uno parla così di gente che è morta, ci criticavano, ci deve essere qualcosa dietro, no? No. Cruciani, 9 anni fa non c'era nessuno, non trovavi una persona in Italia, forse Vittorio Feltri, Oriana Fallaci che non stava neanche in Italia, ci scambiavano per pazzi, trovavi pochissimi anche della Lega che dicevano... Dunque anche questi qua che sono morti, anche questi qua che sono morti fanno parte di quella massa di persone che li pigliavano per pazzi? Non voglio dare spettacolo, insomma questa... non voglio avere una spesa, cercare di capire quella frase, cercare di capire quella frase, non è questione di spettacolo, è capire quella frase. Ti sei pentita o no? Questo voglio capire. No, non mi sono pentita perché io non ho detto nulla assolutamente contro i morti in Tunisia e posso continuare a ribadire il mio rispetto, il mio cordoglio e la pietà per le vittime. Grazie, arrivederci, grazie, grazie. Saluti, signora Caccia. Arrivederci. Ciao. Quando fai così e lo schiaffeggi, no? Allora Sergio da Torino, Sergio da Torino, vai Sergio, dimmi. Sergio Chiamparino, cioè. Pronto? No, buongiorno, buonasera, vai, dimmi. Vai, grande, vai. Ritornare su temi più faceti e aggiungere alla citazione del grande Oliviero Toscani, ricordarvi che anche il padre della patria Vittorio Emanuele II, quando andava a caccia in Piemonte di selvaggina, grande femminaro come si direbbero in Sicilia, andava anche a caccia di donne e pretendeva che le donne sapessero di Lucio Passetto, cioè di pesce un po' andato male. Lei fa lo storico? Esattamente. Beh, no, però racconta una cosa vera. Chissà perché nei libri di storia questa roba non c'è e la sapete solo voi. No, caro Parenzo, noi ci conosciamo anche, tu non ti ricordi, ma ci conosciamo. Ma perché dai, no, però è vero, diciamo la verità. Vera, questa cosa è verissima, ve l'assicuro. Io sono allora, torinese, io certe cose si sa. Allora, mi hanno scritto molte persone su questo argomento qua che tira moltissimo, però adesso non fate strani agganci, tira moltissimo. L'argomento della pulizia dell'organo genitale femminile, mettiamola così. Tu sai che oggi Renzi era la Luis, no? Sì, lo so. Ma io intanto tento di mettere dentro qualcosa, per caso sono in macchina. Però vi assicuro che mi hanno scritto in tante persone e dicono delle cose... Posso leggere un messaggio piuttosto spinto? Fammelo vedere prima. No, censurare. A proposito della fica delle donne che non si devono lavare troppo, un mio vecchio amico di Orvieto, detto Peppe De Tito, già 50 anni fa, quando apparvero i primi bidet, ebbe a dire: da quando hanno inventato il bidet, la fica delle donne non sa più di un cazzo. Altro che sti comici di oggi, Renzo. Beh, ma devo dire la verità. Ma perché ti scrive? Ma ti posso far vedere i messaggi? I messaggi che arrivano a me sono un po' diversi, diciamo. Però vedi, a me scrive Farinetti che elogia il vino di Toscani, e anche il signore da Terni che mi parla di quanto l'organo genitale femminile, per cambiare un po' terminologia, deve un po' puzzare, cioè deve sapere di suo, giusto, Oliviero? Dimmi la tua, aiutami su questo. Ma non è questione di igiene. Tu adori quando c'è uno, cioè, senti qualcosa di forte, o no? Io sì, moltissimo, devo confessare. Abbiamo un po' rinnegato l'olfatto negli ultimi decenni. Ecco, di la tua, dai. Beh, uno si mette il profumo alla fine puzza tantissimo. Tu quanto ti lavi? Poco, come me? No, meno. Ti lavo tutti i giorni la doccia. No, sbagliatissimo. Una cosa sbagliatissima, sei pazzo. Lui pensa anche di essere normale. Io, per esempio, stamattina io vengo da un tour de force pazzesco. Ragazzi, qui stamattina siamo alla Bocconi. Stamattina mi sono alzato. Sì. Arrivo qua e non è che mi sono fatto, non ho fatto manco una doccia. Ma fa schifo, però! No. Bisogna a dirlo. No, non... poverino, non fa non schifo. È normale. Ma come fai, cioè, fai passare delle cose per normali. Che normali no, non, sento... non è normale sta gente che scrive di questa roba. Ma non che... è normale quello che telefona. Che coppia, ragazzi. Io, vabbè, Sergio, io... allora vuoi completare il quadro storico no, oppure no? Voglio... No, vi ho detto tutto, vi ho detto tutto. A me sembra certo, tutto molto grazie, normale. Parenzo mio, lo apprezzo, mi spiace che su questi temi si schifi. Cioè, non è che pulisci il gorgonzola. Ma non è che... Avete capito? Che non è che mi no, ma dico il gorgonzola a Chanel. Il gorgonzola deve sapere di gorgonzola. E la figlia deve sapere di figlia. Esatto. Non è questione... teorie di e non è questione di igiene. Siete è dei... questione di... realtà. Siete dei poeti della contemporaneità. No, della fica. Diciamo. Ma mancava la parola, cioè, secondo sì, me dai, non scusate. È andiamo a Milano da Stefano, vai. Buonasera a tutti, sì, volevo dire dimmi, due dimmi, cose. Dimmi. Vai, vai. Due. In riferimento alle due volontarie, che Parenzo, sì, sì, a parer mio, dice solo delle gran cagate, perché no, se due vai, sono già andate... E anche è successo quello che è successo, non devono più andare, perché se lui dice mi pare chiaro perché... se vanno a loro rischio e pericolo noi non dobbiamo interessarci di nulla. Allora, per fortuna ci sono associazioni di volontariato in tutto il io mondo. Io odio le associazioni di volontariato. Ma perché tu sei lo stesso che fammi parlare. Odio il che volontariato. Ma tu sei lo stesso che non si lava e che fa l'elogio del non lavarsi, quindi non è che è un parametro. No, ho detto del non lavarsi, del lavarsi meno di quanto i maniaci come te dovremmo... che si fanno tre docce al giorno. No, una doccia al giorno, ogni giorno. Una doccia al giorno è sbagliato. La mattina e una la sera. La mattina me la faccio tutte le sere. Ma la mattina, una no, la mattina la sera, no, perché... dà fastidio l'acqua addosso, un fastidio enorme. Stefano, ma Milano, non è normale, dai. Ma è normalissimo, dai Stefano, conosco un sacco di gente così, ti assicuro. Sozzoni, no. Una manica di Sozzoni, no, conosci no, tu, no. Altro che Stefano, allora? Poi che se l'uccello non si lava sta di pesce, perciò... Vabbè, adesso altro, questo è arrivato, allora, è arrivato Feuerbach. Beato il bidet, beato chi ha creato il filosofo. No, abbiamo capito, ho capito. Perché le donne italiane non ti garbano? Hai sposato solo... No, no, non è che non mi garbano. Va però benissimo. Perché hai sposato solo straniere? No, parlo di una moglie. La moglie, infatti, hai sposato solo perché straniere. La moglie italiana diventa subito mamma e tu non c'entri più. Si cioè? Sposa col figlio, a parte che è sposata con sua mamma, la mamma italiana. Cioè, ma stai facendo un ritratto no, della donna italiana, della donna italiana che è veramente una roba vecchia, però finita, morta. Ci sono dei sorrisi maschili. Cioè, qua, le donne italiane ci sono dei sorrisi sono maschili. Più, sono innamorate del figlio. Figlio maschio. E sono innamorate della madre. No, ma questa la mamma, è una roba che diceva... la mamma la protegge tutto il tempo. Allora, tremenda. La suocera. Conoscete la suocera? Bene. E poi lei è innamorata del figlio maschio. Ma il figlio è l'amore va al figlio maschio, non va più al marito. Le mi donne fa... nordiche che hai sposato tu, perché tu no, non solamente svedesi hai sposato, no? Anche. Come anche? Una svedese. Una svedese e l'altra. Al plurale. Una svedese una francese. E una francese. Beh, l'avrei rimorchiata in qualche set quando facevi le foto, una volta. Rimorchia, quando belle ragazze. Oh. Sì, belle ragazze quando facevi, quando eri famosa. Adesso, no, beh, adesso ancora qualcosa fai, ancora qualcosa tiri su. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. Ah, questa era Ferrara che diceva che meglio le pippe, cioè l'alternativa è questa, o le pippe oppure mettersi sempre i preservativi, cioè se uno poi rimane incinta, se non rimane incinta deve comunque partorire. Giuliano Ferrara, pippe, ecco qua, pippe, molte pippe. Sarai d'accordo, immagino, no? Andiamo a provincia di Vicenza, vai Paolo, Paolo. Ciao a tutti, volevo ringraziare Toscani per quello che ha detto sui veneti, perché ha pienamente ragione, cioè la verità sacrosanta, ce l'abbiamo nel DNA. Ma non uno che noioso, si deve non... non è noioso, è la verità, è la verità, è la verità. La ciao, verità ciao a tutti. È noiosa. Ciao, ciao. Alessio Brescia, vai, Alessio. Alessio? Alessio, Alessio, Alessio, Renato, provincia di Foggia, vai. Buonasera, volevo rispondere a Parenzo che ha parlato di quelle due ragazze che sono state in Siria. Volevo solo dire a Parenzo che quei 10-12 milioni che sono stati spesi per il ricatto, dai, su, sono stati spesi quei soldi, dai, non diciamo buffonate. Anche quando, fosse, sono, quando escono fuori quelle cifre, sono soldi che tutti i governi hanno e stanziano per salvare delle vite umane. Quindi. Vabbè, uno si può incazzare o no? Ma di che cosa allora, si può incazzare? Che uno paghi tutti quei soldi per liberare delle persone che a loro rischio e pericolo sono andate in Siria o no? Può arrabbiarsi almeno? È consentito o no? Oppure, siccome sono andate in Siria e sono benedette da non so che cosa. cosa dobbiamo anche dire. No, per carità, abbiamo dato 12 milioni ai signori estremisti siriani che li usano tra l'altro per comprare le armi, va tutto bene. No, guarda, abbiamo salvato due vite umane e dovremmo dire grazie a tutti quegli quelle italiane e quegli italiani che sono sui fronti di guerra a fare cooperazione allo sviluppo. Va bene, voglio capire se riusciamo a pizzicare il presidente della Sandora Ferrero. Aspetta. Ah, Viperetta? Viperetta, vediamo un po', aspetta. Vai col telefono, vai, chiamatemi Viperetta, dai, vi prego, chiamatemi Viperetta. Ferrero. Quello dell'Inter. Non me lo chiama, no? Non me lo chiama, non c'è niente da fare. Ferrero? Ferrero? Niente, va bene. Fate pagare Andrea lui. Salerno, vai, Andrea. Ah, eccolo, aspetta, fermo. Ferrero mio. No, sinistra, non andare via. Senza i tuoi capricci che se fa. No, scusa se la colpa è un poco mia, ma chi se ne frega. Sottenerti alla Samp senza te che farei. Presidente, è impazzito. No, ma perché lei è impazzito? Canta le canzoni per Mikhailovic, scusi. Chi è lei? Sono Cruciani, la zanzara, come al solito. Ah, ma fatemi cantare. Guardi come sono caruccio, c'è pure cravattella. Io e sinistra. Che canzone, Baglioni. Ercole di Roma, Baglioni, una canzone perché d'amore. Perché adesso continua continuamente a cantare delle canzoni? Ma mi piace, Bruno Conte a Sanremo mi ha fatto cantare, adesso io faccio un'altra canzone, senti Cruciani quante carucce. Era Carlo Conti, era comunque, vabbè, allora? Bruno Conti, te l'ho detto io. No, Carlo senti Conti, questa, non Bruno. Senti questa, quanto è bella. Fammi sentire, dai. Ti amo. Sinistotti amo io e della Samp stamo se andiamo in testa magari lui resta ancora la Samp grande quanto Presidente, bella. Secondo me le dovrebbe finire, dovrebbe smetterla di cantare. Arrivederci, buona serata, arrivederci. Chi è lei? Sì, chi è lei, mio nonno, vai. Abbiamo con noi, amici miei. Qui a Verona, al Vinitaly di Verona. Vinitaly di Verona, voi pensate che magari ci possa essere un imprenditore del vino? Beh, sì, no, sarebbe stato un grande imprenditore del vino. Giusto. O magari, che so io, un importante direttore di banca, visto che siamo alla radio del Sole 24 Ore. Ebbene no, abbiamo l'unico uomo in Italia che ha l'età, quanti anni ha lei? Io ho 58 breve. 58 anni, sì. È vergine. Sì. Cioè abbiamo l'unico 58enne maschio italiano, sì. Vergine, sì. Almeno così sostiene. Allora abbiamo capito che qui su questo palco ci sono tre malvissuti e uno che cerca di essere un po' normale. No, i malvissuti normale? Sono qua, avete già capito che razza di gente avete di fronte, perfetto. No. Ma siccome io non sono maiale come lei, Cruciani, permetti davvero. Maurizio Ruggero è il fondatore, presidente di un'associazione, fantomatica associazione, che si chiama Sacrum Romanum Imperium. Non è così, ma comunque non è neanche fantomatico, comunque va bene così. Ti spiego, Ruggero. No, vi faccio notare che voi altri... Io e lei ci conosciamo da 10 anni. Allora... La cosa drammatica, sì, perché lo invitavo quando facevo trasmissioni qui nelle TV. La cosa drammatica è che l'associazione Sacrum Imperium, non Sacrum, esiste davvero? Cioè la cosa. Uno può fare un'associazione scrivendo un pezzo a di carta. No, ma l'altra cosa che è altrettanto grave è che ci sono tanti iscritti. Questa è la seconda cosa. A me dispiace grave. Molto che voi altri. Cioè, come dire, vi facciate. No, ma io dico a 58 anni, come cazzo si fa a essere vergini? Questo capisco. Come si fa a essere vergini? Ma come si fa a essere maiale come lei? Non è il problema. Ruggero, allora, come fai a non aver mai visto una figa in vita? C'è una regola. Fatelo spiegare. Bisogna vivere secondo il proprio stato. Se voi altri non volete vivere secondo quelle che sono le norme, è un altro discorso. Che norme? Se mi sposerò, benissimo. Non mi sono sposato. Scusami, Maurizio. Però vorrei dire una cosa. Io ti voglio anche bene per la tua. Sembrerebbe per la verità. Comunque hai il coraggio di dire queste robe perché ci vuole anche coraggio. Io ho il coraggio perché so ma che quali norme? È giusto. Io questo voglio capire. Tu puoi decidere di essere vergine, d'accordo. Allora. Ma a parte Cruciani, le seghe esistono, vediamo di capirci nel tuo mondo le seghe esistono o no? Vediamo di capirci un attimo. Quello è un altro. Allora, dammi una risposta. No, io vorrei avere un confessore, ma vorrei avere Cruciani, perché di Cruciani, no, come confessore, prego, non mi fido, fammi, francamente. Fammi capire, cioè, le seghe se io devo andare dai maiali, vado ai maiali. Ma se devo andare da un confessore, potrò essere un maiale o no? Avrò la libertà di essere sì, un sì, ma non con me, non ho capito perché devo farlo io. Non ho capito perché devi rovesciare, cioè sono io che devo giudicare uno come te. Non sei tu che devi giudicare uno come me. Siamo alla follia. Cioè abbiamo no? Abbiamo rovesciato freudianamente tutto, per cui sembra che la normale no, sia normale, il contrario certo, no. Io sono normalissimo. Allora, vorrei sei dire tu che non hai scopato per 58 anni, abbi pazienza. Ma non ti preoccupare di quello che faccio io. L'importante è quando ti presenti al cospetto del Padre Eterno. Beh, cioè, ciascuno deve rispettare la castità secondo il proprio stato. Allora, no, chi non è sposato non ci va, no, chi è sposato va con sua moglie. Ruggero, purtroppo oggi sono tanti che se ne fanno 10.000 sì, di mogli. Spieghiamo per non dire a chi ancora non ha il piacere di conoscerla. C'è una differenza tra chi si fa 10.000 mogli e chi non ha trombato per 58 anni. Ci sarà una differenza o no? Certo, la differenza è tra i maiali, no? Cioè, aspetta, la differenza è tra chi rispetta i 10 comandamenti e chi non rispetta. Dici, chi... Voi, quelli come voi, hanno creato questo immenso inferno in cui noi oggi dobbiamo vivere. Questo schifo dove la gente non ha principi, dove si pensa solo ai soldi, e questo è già un bel tempio, per la verità, da questo punto di vista. Dove si pensa soltanto a fregare il prossimo, dove non c'è altro che egoismo. Questa è la società meravigliosa che voi avete fatto. E ne parlate qua. Nella Guardia Veneta di Verona, no, perché questo si chiama Veneta. Palazzo della Gran Guardia, tu sei padovano, ti assolvo per quello, no? Questo era il palazzo dove risiedeva la Guardia Veneziana, qui di fronte c'è un monumento abusivo a Cavour, a Vittorio Emanuele II, dove c'era un tempo il monumento a Venezia, a proposito di occupazione di società infernale. Hai anche un'altra aggravante, che sei pure indipendentista, cioè sei indipendentista veneto, poi che c'hai ancora lì? Sono reazionario, assolutamente reazionario, tradizionalista, cerco di vivere rispettando i 10 comandamenti, voglio salvarmi l'anima e non voglio finire come voi due. Posso? Grazie. No, però la cosa incredibile, magari chi è qua lo vede, in carne e ossa, no? Ma chi è a casa potrebbe dire vabbè, non esiste. Invece Ruggero esiste. Allora, la sua associazione. Ma il bello è che esiste non solo Ruggero, ma esistono le migliaia di persone. Ma che quando facciamo migliaia? La sfilata, qua ci sono. Allora, c'è la sfilata. Questa è la terza cosa grave che ti voglio dire. C'è la sfilata, c'è la battaglia. C'è la terza c'è cosa la grave. Si esaltano, perché a Verona ogni anno il signor Ruggero organizza con altre 1300 persone, no, un po' di più, per la verità, perché se guardi i numeri rimette in scena un fatto storico. Meno male che ci siamo arrivati, meno male, è una roba drammatica. Mette in scena questa roba qui straordinaria, che con i cavalli, le Pasque veronesi. Ah, bravo, si chiamano le Pasque. Sette più, bravo. E ci sono 1500 persone che ogni anno vengono qui e la pensano come Ruggero. Ce ne sono molto di più. Questo è il punto. C'è un sacco di gente, c'è chi fa le Pasque veronesi e c'è chi si fa fisciare addosso. Allora, avete già fatto un inferno. Avete già reso questo un orinatoio. Non fate di peggio, perché esiste purtroppo. Che voi piaccia o non vi piaccia, ma esiste. No, esiste tutto solo un mondo. Sei l'unico uomo. Devi chiedere la pensa così. 58 anni, vergine, ma sei no, l'unico. Ma scusa, ma allora l'inferno è pieno di gente come te. Io non vabbè, ci voglio andare. Francamente, guarda, ma se questa è la democrazia tua, te la lascio tranquillo. Sa cosa c'è l'inferno. Io vorrei salvarmi l'anima. Io non capisco, vorrei rispettare le norme morali. La democrazia non scopare per 58 anni. La democrazia è quello che fanno i più. Siccome tu continui a sostenere che tutti noi facciamo così abbiamo ragione, e no, il fatto che la maggioranza dica una roba non vuol dire che abbia ragione. Ma almeno un po' te l'hanno toccato qualche volta o no? Queste sono cose da confessore, perché poi non entriamo in queste volgarità. Sapete qua Toscani ci pensa lui a quelle robe lì. Perché tu non sopporti Toscani? Sì, non sopporto Toscani. Lo detesti. Tutto ciò che è Toscani, ma lasciamo stare adesso, non è Toscani in discussione. Questo sei orgoglioso di questo? Beh, direi. Beh, insomma, scusa. Come dice la scrittura, vituperare e empi l'arresto, cioè quando un empio ti insulta è una lode, sono contento. Quando voi insultate Ruggero sono tutti dei lodi che fate siamo a me. Curiosi, io vi ringrazio di questo, perché vuol dire che ho ragione, perché come sempre con tutta la tradizione alle spalle io ho ragione, non perché sono io, lo sai, ma che perché la tradizione. Tu sei omosessuale, siete voi che siete fuori. No, ecco ci mancava soltanto questo e dopo siamo a posto. Ambulanza. Mi sembra che Sodoma abbia già abbastanza seguaci, Sodoma. Non c'è bisogno che Ruggero, che detesta Sodoma, notoriamente signor, questo, Sodoma, i signori di Sodoma, aggreg- Sodoma, sodomiti, cioè i sodomiti, omosessuali, perché? Omofili, uranisti, come li vogliamo chiamarli? Gente che si ama, gente invertiti, che, gente che si ama. Io so, Ruggero, che lei ha anche delle posizioni particolari sulla donna, cioè per lei la donna dovrebbe, non so se ha voglia di dirlo qui davanti a tutti. Cioè, non... Allora Parenzo, lei sa benissimo, ci conosciamo da più di 10 anni. Purtroppo sì. Come mai? Sono un reazionario naturaliter, non ho problemi a dire niente di quello che penso. Beh, appunto, per lei la donna, la donna che ruolo deve avere nella società? Di fronte, io ho sempre detto, ma questo è la tradizione. Oh, dichiariamolo qui davanti a gente che sicuramente la pensa come lei. Beh, no, ma anche se non la pensa come me è uguale. La donna per lei? No, c'è un elemento di carattere affettivo e familiare che è la dimensione sua propria. Cioè, ma voi le avete lavora è un male. Ma voi se lavora è un male. Allora, secondo me noi possiamo rimpiangere Rosy Bindi al Parlamento, non mi pare. Pure Berlusconi, possiamo rimpiangere la Fornero al Ministero, non mi pare. Vabbè, ma che c'è? Ma, cioè, che voglio dire, ma le donne, lasciamo perdere i politici. Quali sono le grandezze compiute da questo? Un disastro. Vogliamo parlare di Elisabetta prima d'Inghilterra, che faceva le donne è meglio che restino a casa a servire l'uomo. Io dico una cosa, dico che il Padre Eterno ha fatto tutto in maniera differenziata e diseguale, e bisogna rispettare le legittime diseguaglianze. Come i fiori sono di diverso colore, così anche i sessi hanno delle diversificazioni, ed è giusto rispettare questo. Siete voi figli dell'egalité, per non dire di un'altra cosa, che volete fare il contrario. E l'aborto? L'aborto, anche l'omicidio dobbiamo fare adesso, lei è pure per l'omicidio, scusa, da cancellare l'aborto, scusi, ma ammazzare un bambino le va bene? Vabbè, cioè, se avessero ammazzato lei, vabbè, forse l'umanità ne avrebbe guadagnato, però voglio dire, ma si rende conto cosa dice? Ma neanche ti faccio un regalo, tieni, guarda, un preservativo. Daglielo a Toscani, che ha più bisogno di me. Lo conosce o no questo? Ma no, non, a parte che è se vietato. Dovesse accaderti, come è vietato? Non è vietato? Non è vietato. Allora, non nella morale, allora, premesso che morale tu dica, nella tua morale è vietato il preservativo. No, non è la mia morale. È vietato anche il preservativo. Ma non lo sapevi mica. È vietato, secondo te andrebbe vietato? Ragazzi, ma ambulanza! Un corso rapido di catechismo a Cruciani. Ma quale catechismo? Toscani che è fuori. Ma questo nemmeno il Papa la pensa così, nemmeno Papa Francesco. Fuori. Allora, cosa pensi Bergoglio? Lasciamo perdere. Ma cosa pensa il papato? Cosa ha sempre pensato il papato? È un comunista, secondo te Bergoglio è un comunista. Bergoglio è quello che piace a Pannella, a Bertinotti, a Dario Fo. E dai, conservalo però questo qua, dai. Il che fa vedere quindi che razza... Non mi serve. Primo è immorale, non mi serve poi, quindi non ti preoccupare. Ma quindi, qualche volta ti sei, nella tua vita, Maurizio, ti sei eccitato qualche volta? Cioè, ti è venuto un moto di eccitazione? Cioè, ti sei... Ma posso scegliermi il confessore che voglio io? Ma cosa è incredibile, devo andare a confessarmi? Ma deve con una confessione? Ma è mai possibile, quello che dice miei. Il discorso che facevo prima, l'odore, l'hai sentito qualche volta? Il profumo. Guarda, io di odore qua sento quello del vino, sento il profumo di vari, non so adesso... Del vino Italy, che ne pensi del vino? Cioè, di questa manifestazione pazzesca? Io penso che sia una cosa buona sostenere il vino. Tu aspetti la critica però. No, aspetta, immagino. No, l'elemento critico è l'enolatria, cioè l'adorazione del vino. Ah, certo. Adesso, ragazzi, siamo arrivati alla follia. Cioè, c'è gente che si impanca. Mi dai il film un attimo, se no non riesco neanche a tenermi questo. Dimmi. C'è gente che si impanca con un uscitore di vino facendo ridere. Vabbè, quello è un altro discorso. No, giudizio finale di Toscani sul signore che ha appena conosciuto qua. Ma non me ne frega lapidario, niente. Lapidario. Mi interessa lapidario. Il giudizio di Dio, non il giudizio di Toscani. Se no me ne frega i Toscani a me. Voglio vedere il suo poi quando arriverà davanti al Padre Eterno. No, ci mettiamo a ridere tutti. Rideremo. E il Padre Eterno riderà bene chi riderà ultimo, Toscani. Ne hai fatte troppe la tua vita. Lascia fare. Però hai tempo per convertirti. Però io ti consiglio una cosa, senti ogni tanto l'odore profumo, io vorrei... del vino. No, non è un peccato, capito, il vino un'erezione sana. Mi sembrava aver capito. Ciao, ci sentiamo domani. Chiudiamo. Parleremo di Draghi. Viva la figa. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Radio 24, la passione si sente.